Palla Spicchi con Carlo Genta. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Buon pomeriggio a tutti, subito qui un Grammy Award per il coach Dan Peterson. Io non so se questo l'anno scorso, di due anni fa, a Sport Italia, quando quel disgraziato di Guido Bagata mi costringe a fare almeno una canzone di Natale con le chitarre ogni anno. Dovrebbe farlo più spesso. Lo farò fra, non so, qualche... Adesso oggi siamo a 9 o 10, non so, alla vigilia di Natale qualcosa su NBA News lo farò. Intanto, caro coach, oggi ti ho rapito il socio. Chiederemo riscatto a Sport Italia per restituirvi Nicolò Trigari. Ciao Nicolò. Ciao Carlo, un saluto al coach che sta mentendo, perché lui dice che lo costringe Bagatta, ma non è assolutamente vero, è lui che costringe Bagatta. Ah, com'è sta storia? Nega, hai giurato di non dire la verità, ok? Senti, coach, mi sembra giusto oggi sorridere un po', perché noi siamo sempre critici, pessimisti, un po' musoni, però abbiamo tre squadre alle top 16 di Eurolega, no? O quasi, perché sono lì sulla porta, devono solo attraversarla. Abbiamo tre giocatori che fanno 83 punti in una notte NBA, 41, 20 e 22, due di essi giocano anche in squadre discretamente vincenti in questo momento. È quasi Natale, perché non spendere un po' di ottimismo? Assolutamente, cioè, queste delle tre squadre del top 16, la prima volta in qualche anno, e vuol dire che c'è un po' di qualità, e questa è la storia, perché anche se Roma andrà a top 16, sta soffrendo un campionato, vuol dire che abbiamo un campionato forte qui in Italia. Milano ha avuto qualche problema di recente, ma anche pure lei andrà al top 16 con una prestazione veramente di cuore l'altra sera a Milano, che era veramente una cosa commovente a vedere. E Siena è venuto fuori come super squadra. Infatti oggi eravamo a parlare, io e Nicolò Trigari, fra di noi, ma è più forte Siena quest'anno, e anche Guido o l'anno scorso, e quindi è molto discutibile. Per i tre ragazzi in NBA possiamo solamente dire che chi sarà il prossimo, il quarto di andare in NBA, argomento molto aperto. E secondo te chi sarà? Well, non so, io non voglio caricare nessun giovane di troppo peso. Ho visto qualche progresso di Nicolò Melli, ma sì, non voglio dire di lui, ok? Hanno già detto di lui. Io dico, se lui impara a veramente un tiro da tre veramente di qualità, un palleggio resto tiro, uno che riesce a giocare anche faccia verso canestro, come fa Gallinari, tanto per dire, allora lui ha la possibilità, ma deve mangiare ancora molte tagliatelle. Però mi piace Melli perché ha l'altezza, ha il fisico, è un atleta, grande salto, e abbiamo visto che lui anche mette il cuore, la grande partita lì a Lubiana, vuol dire che se viene data l'opportunità lui sa anche rispondere. Ditelo anche voi chi sarà, secondo voi, 800-24-0024, numero verde, secondo te Nicolò? Beh, direi che in questo momento Melli è il nome più facile da fare, anche se non dobbiamo dimenticare che sostanzialmente l'anticipo con cui Gallinari è andato in NBA ha cambiato un po' i piani del rapporto tra la Serie A e la Lega Professionistica Americana. Quindi io direi, godiamoci questi tre, diamo tempo ai ragazzi di crescere. Ora non ne vedo uno che domani potrebbe andare in NBA. Ci sono dei giocatori del nostro campionato, ovviamente è facile fare il nome di Motiejus Junias, che sono destinati a raggiungere l'NBA entro pochi mesi. Se parliamo di italiani, aspettiamo. Sì. Coach, io voglio essere ottimista, però è un po' difficile guardando Roma. Tre vittorie nelle ultime 12 partite, brutta la partita anche di ieri sera a Madrid. Ieri vi sentivo, ragazzi, in telecronaca. Coach, tu insistevi su un fatto: quando si è in crisi bisogna semplificare. Yeah, io sono. Innanzitutto abbiamo fatto l'analisi ieri sera, cioè uno, non hanno fatto tiri liberi, due, hanno avuto, non so, 20 palle perse, tre, le altre hanno preso più rimbalzi in attacco, adesso sto dimenticando altre, cioè non c'era, beh, curiamo questo riparto qua. Devono curare, poi non hanno tirato bene da tre, questo è la quarta. Non c'è un reparto che gli dà garanzie. Io quando pensavo di avere difficoltà, o una mancanza di vero talento. Io ho semplificato tutto, cioè, e non solamente qui in Italia, cioè il mio primo anno con Virtus Bologna, uno schema, primo anno con l'Olimpia Milano, uno schema, allenava la Nazionale di Cile, uno schema, primo anno a Delaware, uno schema, all'anno dell'Accademia Navale con le matricole, uno schema, a Michigan State, l'attacco più completo lì. Però voglio dire che quando mi trovavo in una situazione di difficoltà, e quindi io non volevo dar troppo materiale a loro, aver loro dimenticare, cioè, ragazzi, faremo una sola cosa e facciamolo bene, e loro sono indirizzati e sanno che devono vivere proprio con quello lì o morire con quello lì. Quindi io sono per questa idea di semplificare le cose e dire: una difesa, non facciamo zona, sì, sì. Uomo e uomo pressing, questo è lo schema in attacco, facciamolo bene, leggiamo le difese per le opzioni. E poi avevo anche l'1-3-1 Milano, che era un optional, hai capito, che si poteva usare, però io sono per la semplicità. Sì. Poi in difficoltà Mike D'Antoni alza la L, Dino Meneghin va a fare il blocco, Premier esce dal doppio blocco basso, palla nell'angolo, canestro, e le difficoltà spariscono, avendo i giocatori, mio caro coach. Carlo, ma stai smontando le mie immagini pezzo per pezzo. Non farlo con Nicolò che ascolta, che adesso quando mi vede questo pomeriggio mi prenderà in giro. Lui è giovane, poi gli spiego due o tre cose, Nicolò. Okay. Senti, cosa invece volevo, prima di salutarti, volevo chiederti ancora una cosa, poi chiacchieriamo con Nicolò più tardi e con i nostri ascoltatori. Milano, io sono stato profondamente deluso dalla partita di Siena, perché Milano è caduta nella tentazione di aggrapparsi agli alibi nella partita con Siena. Innanzitutto, ormai nel mondo, dico NBA, Italia, Eurolega, non si può parlare con gli arbitri come una volta. Poi, ovviamente, io quando allenavo esageravo, magari anche i giocatori, però erano più flessibili loro, erano come i pugili a un tempo, cioè incassavano un colpo, ti davano un colpo. Cioè, quando tu facevi allenatore con Vitolo, Durante e questi qui, cioè, ehi Dan, siediti e stai zitto, cioè così, ok? Durante, sfogli il regolamento, cioè scambiavamo parole, ma non c'era mai mancanza di rispetto da nessuna parte. Poi magari io andavo in campo, oltre la linea bianca, automaticamente espulso. Però questo è un altro discorso, andavo io a cercare i problemi. Però oggi non si può dire niente sugli arbitri, altrimenti finisci nei guai, loro sanno tutto, eccetera. Però anche come dicevi tu, Carlo, non aggrapparti alla comoda scusa, sono stati veramente, abbiamo visto tutti in televisione, spazzati via, e lo sanno loro, sì. Lo sanno loro. La cosa positiva di questo qui è che tre giorni solamente dopo hanno avuto veramente la forza mentale, grazie molto secondo me a Mason Rocca, okay, veramente il faro, il lume di questa squadra, a tornare in campo e regalare tutti una grandissima vittoria. Però lì a Siena negli arbitri non c'entrava niente. Siena è molto più forte, due Milano ha degli assenti e proprio Milano non ha giocato bene. Questa è la verità sulla partita. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Sì, Carlo, grazie amici sportivi, ciao Nick, ci vediamo dopo. Ciao coach. Ecco che riprendiamo, Franco Piantini in redazione, Peter Bescappè in regia, Nicolò Trigari, voce di Sport Italia, dell'Eurolega in particolare qui con me, e ti giro subito un complimento che arriva da Treviso, oltre a rimproverare che dite: ma non parlate della Benetton 7 su 7 tra campionato e Coppa, imbattuti in Europa. Ma volete, non ne parliamo e come, anche con voi, 800 24 00 24. Bene, Max scrive: complimenti a Nicolò, a mio parere è uno dei migliori telecronisti dello sport in Italia, prendi e porta a casa. Grazie mille, il complimento lo prendo, poi sì. Andremo a vedere. Senti, ma su Milano cosa ne pensi? No, io dicevo prima al coach, ho ceduto, secondo me la tentazione dell'alibi, degli alibi infortunati, tanti giocatori assenti, e come si fa ad andare a Siena in queste condizioni, un peccato perché la sfiga ha rovinato questa partita che era il primo nodo importante nel campionato italiano. Però Milano non aveva la faccia giusta, non ha approcciato bene questa partita. È vero, tre giorni dopo in Eurolega ha giocato un partitone diametralmente opposto come atteggiamento. Coach Bucchi, al termine della partita, commentando la differenza tra la partita di Siena e quella con l'Efes, per prima cosa ha detto: io sapevo il motivo di quella settimana storta, la squadra lo sapeva, ci siamo parlati, abbiamo risolto il problema. Non ha parlato di infortuni riguardo almeno 32 di Siena, ha parlato di un problema interno alla squadra che può essere legato all'atteggiamento, per fare un esempio, e ha detto che la squadra ha saputo reagire, che è la cosa più importante. Se poi andiamo ad analizzare la partita di Siena, parere mio personale, l'Armani Jeans non aveva una singola chance di vincerla senza quei tre giocatori. È chiaro che la critica nasce dal fatto che non l'abbia semplicemente persa, ma sia stata rasa al suolo. Su quello si può discutere, però è evidente che questa versione di Milano, anche quella commovente vista contro l'Efes, non sia in grado di opporre moltissimo a Siena, ancor meno al Palaestra. Sì, no, non c'è dubbio, però c'è modo e modo anche di perdere le partite. Siena senza tre giocatori importanti non avrebbe perso in quella maniera. Milano magari avrebbe perso, ma non in quella maniera. Tra l'altro è comunque sorprendente come Siena, che ha mandato in questo modo a Milano un messaggio molto preciso e molto violento, secondo me, violento ovviamente in senso sportivo, è incredibile come sia cresciuta velocemente. No. È pazzesco se consideriamo soprattutto non solo quanti giocatori hanno cambiato, ma che giocatori hanno cambiato, perché se tu, senza arrivare a Sato, cambi playmaker e centro in un sistema come quello di Siena, che da 4 anni era collaudatissimo, al di là della capacità di McCaleb di calarsi nella nuova realtà e di dipingere una nuova versione di Siena rispetto a quella del passato, bisogna riconoscere i meriti di uno staff tecnico che ha fatto un lavoro straordinario, perché non voglio giudicare McCaleb e McIntyre, sono due ottimi giocatori, però sono talmente diversi, Rakovic è talmente diverso da Eze, che rivedere Siena giocare in quel modo dopo così poco tempo è veramente pazzesco. Tra l'altro, miglior record europeo insieme al Maccabi, 7 vinte e 1 persa, sono le due squadre che vanno meglio in Eurolega. Giorgio da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Saluto i suoi ospiti. Buongiorno. Volevo dire la mia su un probabile giocatore italiano per il futuro in NBA. Sì. Lei sta dicendo Hackett? Bravo. Io, ma perché, non perché, ma sicuramente perché sono pesarese, ma perché vedo che sta crescendo molto e fa crescere anche i giovani attorno a lui, a Pesaro, Cenciarini, Traini, ragazzini che nessuno conoscevano, a parte Cenciarini. Traini era un pivellino lì che fa ridere, ma fa crescere tutti ed è una persona, un uomo, non è più un ragazzo, è responsabile, vedo che attacca il ferro e è piacevole vederlo giocare, è logico che deve crescere ancora, però secondo me ha dei mezzi. Noi poi abbiamo perso una partita brutalmente, collegandomi al vostro discorso, contro la Benetton, perché veramente la Benetton la ritengo il più bel antagonista, la più bella squadra antagonista di Siena, secondo me. È fortissima. Presto, Benetton squadra molto interessante e certamente la squadra che ha preso fuoco in questo momento. Sui due argomenti io coinvolgo anche Stefano Valenti, Super Basket. Ciao, ciao Carlo, buongiorno. Allora, Daniel Hackett, forse abbiamo parlato in una delle nostre chiacchierate domenicali, è una delle più belle novità del nostro campionato, perché l'anno scorso era un giocatore che giocava a Benetton con un contratto pesantissimo sulle spalle, con tante aspettative, forse nemmeno con la testa giusta. Quest'anno è un giocatore profondamente diverso anche fisicamente, mi pare, più leggero e più reattivo. E Benetton Treviso, che tu hai visto domenica, che è una squadra on fire in questo momento, non so se sia l'antagonista di Siena, mi sembra tanto. Sì, obiettivamente è tanto. Dunque partiamo da Hackett. Speriamo che l'anno scorso, nella totale brutalità con la quale lo ha vissuto, sia stato tempo guadagnato e non tempo perso, quando poi andremo ad analizzare quella che sarà la sua carriera tra qualche anno. Io ho sempre considerato lui, che ho avuto modo di conoscere le sue prime uscite in Italia, cioè quando per certi versi lo abbiamo conosciuto con la nazionale in qualche raduno prima di conoscerlo come giocatore nel campionato italiano. Insomma, a me il ragazzo ha fatto sempre una buonissima impressione. Poi si è trovato catapultato in una realtà indiscutibilmente più forte di lui, perché non era il giocatore italiano che veniva e si misurava con il campionato italiano, no, era il giocatore americano appena uscito dal college, è tutt'altra cosa, quindi andava valutato in quell'ottica lì, così come magari viene valutato un giocatore americano che esce dal college e per la prima volta viene a misurarsi in Europa. L'anno scorso, ripeto, è stato veramente duro, brutale per lui, con tante attenzioni sicuramente eccessive, gravato anche da un mercato che si è acceso come inevitabilmente si accende su un ragazzo della sua età, ce ne sono pochi in giro, e allora quando se ne intravede uno buono è già un fenomeno prima di vederlo sul campo, sia sul piano tecnico che su quello contrattuale. quello che lui sta facendo quest'anno in una situazione che apparentemente poteva sembrare la più comoda, la più facile, la strada più corta, ma al tempo stesso priva di ostacoli, non è così, ma lui si è calato come leader, diciamo, morale di questa squadra, rispolverando la sua origine e viste sue partite, due partite a Pesaro, devo dire che il legame con la piazza è forte, ma la piazza si lega a un giocatore non solo perché è nato o ha vissuto e cresciuto a quelle parti, ma anche per quello che fa sul campo, e questa è la notizia più bella. Nick? Io sono del parere che il legame fra Hackett e Pesaro e la Scavo sia qualcosa di straordinario. Io mi ricordo l'anno scorso quando è arrivato a Treviso, lo abbiamo subito intercettato perché c'erano i preliminari di Eurolega con la Benetton coinvolta, e io, conversando con Hackett, ho parlato un minuto e mezzo di Treviso e della Benetton e 15 di Pesaro e della Scavolini. Gli ho detto: ma sai quando giocherete a Pesaro? Aveva la data stampata in testa. Lui non è solo una persona che ha riscoperto le proprie origini, lui tifava Scavolini ancora a USC, è un giocatore che, a differenza di altri, tornando a casa, vestendo la maglia che adora, è riuscito a dare il massimo e sta trascinando obiettivamente quell'entusiasmo che Pesaro non vedeva l'ora di buttare a palazzo. Sì, aveva bisogno di uno. Lui aveva bisogno di Pesaro e Pesaro aveva bisogno di uno così. Stefano, la Benetton che non si ferma più invece? Sì, qui è un'analisi quantomeno interessante, perché negli ultimi anni le squadre impegnate nel doppio confronto, soprattutto quelle in Eurocup, hanno fatto fatica. Ricordo che proprio l'anno scorso misi mano uno studio dal quale venne fuori che attorno al 40% di quelle che avevano partecipato all'Eurocup avevano 38%, se non sbaglio, sostituito poi allenatore, perché in qualche modo o non andava bene la Coppa o non andava bene in campionato. Treviso si è messo in moto proprio grazie all'Eurocup e da lì ha preso fiducia e spinta per il campionato, quindi situazione leggermente anomala, in parte l'ha vissuta anche Caserta, ma siamo già in contrazione. Invece Treviso su quella spinta lì si è rilanciata su tutti e due i fronti, e a questo punto le serve la vittoria casalinga sul PAOK per chiudere al primo posto il suo girone, e tutto tempo guadagnato per un progetto come quello di Repesa, che comunque verte su una squadra giovane. Qui a Bologna domenica si è giocato la sfida tra le due più giovani del campionato, la Virtus e Treviso, e insomma Treviso ha fatto la figura della squadra esperta. Poi è vero che cose molto importanti in quella serata l'hanno fatta Devin Smith, l'hanno fatta Nicevic, l'hanno fatta Bulleri, però il supporto dei giovani è stato sicuramente importante per restare attaccata alla partita in una situazione non facile. Quello che sarà capace di fare Treviso in campionato è ancora da vedere, perché anche qui, per ragionando un po' per assurdo, forse il campionato italiano ha delle insidie in questo momento superiori, magari la testa è un po' più piena di tante cose, anche a livello tattico, a livello di scontri diretti, di classifica, di Final Eight di Coppa Italia, che è un argomento molto caldo quando andremo a analizzare il turno di questo turno di campionato, e però insomma credo che avere Repesa in panchina da questo punto di vista sia un buon punto di partenza, dopo le chiacchiere estive che comunque hanno un po' condizionato la partenza di Treviso. Grazie Stefano, ci sentiamo domenica. Grazie a voi. Dunque, caro Nicolò Trigari, ripartiamo da dove abbiamo chiuso, cioè Treviso e queste sette partite messe in fila. Giovani che non hanno più paura, sembrano, no? Che giocavano prima con le montagne sulle spalle, adesso le montagne sono diventate discese. Intanto è più facile scendere quando la squadra va bene, e questo soprattutto sui giovani ha un peso notevole. Quando le cose funzionano i tiri pesano di meno. Poi sono ragazzi di grandissimo talento, obiettivamente. È stato giusto ricordare anche Gentile tra i ragazzi che potrebbero un giorno, chissà perché no, partecipare al campionato NBA. Ma al di là dell'NBA, Treviso, per certi versi, a me aveva stupito quando era partita male, come per altri il fatto che sia riuscita a vincere sette partite e il modo in cui le ha vinte può risultare altrettanto stupefacente. Se facciamo la somma di tutti i risultati ottenuti dall'inizio della stagione, la Benetton è dove mi aspettavo che sarebbe stata la Benetton, anche perché il progetto è bellissimo, Repe già lo conosciamo, i ragazzi sono lì da vedere e i veterani non sono persone che si lasciano travolgere dagli eventi. Sì, in questa chimica che si sta costruendo, ad esempio, mi fa molto piacere un ruolo ben preciso e molto importante, quello di Massimo Bulleri. Ragazzo straordinario che ovviamente chi ha seguito le vicende di Bulleri conosce molto bene nei suoi enormi pregi e anche nei suoi difetti. È un ragazzo che ad esempio a Milano ha fatto tanta fatica per inserirsi, per trovare un proprio posto all'interno del progetto dell'Armani Jeans, però è un ragazzo che ha sempre dato tutto, è un ragazzo che a me personalmente, anche come uomo, piace tantissimo. Piero da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, buongiorno anche a Nicolò. Buongiorno. A cui faccio i complimenti a lui e indirettamente chiaramente anche a Sport Italia per lo spazio che dedicate al nostro basket e anche al basket americano. Ecco, io la mia è una considerazione, una constatazione, vorrei conoscere la vostra opinione sul rapporto tra, diciamo, basket e stampa, basket TV. Io noto questa particolarità, non è una critica perché probabilmente condivido anche lo spazio che è dedicato all'NBA piuttosto che al campionato italiano, anche io parlo della Gazzetta, potrebbe sì. essere quel il quotidiano più importante, più diffuso, ecco. È noto questa stranezza, insomma, rispetto a tutti gli altri sport, forse il basket è l'unico in cui il campionato italiano è trattato in maniera, direi, quasi paritaria, ma forse anche qualcosa meno. Insomma, ho visto le due pagine dedicate all'NBA oggi al mago. Ripeto, condivido perché anch'io seguo tantissimo il basket americano. La verità è che anche il basket è uno sport che si regge sui personaggi. Ora, dal punto di vista mediatico, è brutto dirlo, è anche antipatico, però è la verità. Questi tre ragazzi che giocano nell'NBA, dal punto di vista mediatico, contano di più del campionato italiano, contano di più della nazionale. Se questo sia perverso non lo so, se questo possa essere un traino per il movimento, perché magari prima sulla Gazzetta due pagine di basket non le vedevamo tutti i giorni, adesso sono quasi una costante, quindi non so se questo possa essere positivo o negativo, e in fondo non è neanche in cima ai miei pensieri. Insomma, fatto sta che questi tre personaggi che hanno attraversato l'oceano e che, grazie a Dio, finalmente stanno giocando divinamente, sono quelli che trascinano il basket sui giornali. Certo, questa è la realtà, no Nicolò? No, io condivido, ripeto, mi piacerebbe poi vederle magari tutti i giorni, due pagine, so che questo non sempre è facile, poi non so se sia la mancanza di personaggi o altri interessi, magari, o il basket italiano rispetto a quello americano muove magari interessi diversi o minori, non lo so. Io però sono del parere, ad esempio, che se parliamo di personaggi, uno come Mancinelli è molto più personaggio di uno come Bargnani, però è evidente che se consideriamo che questi tre ragazzi sono presumibilmente i tre migliori giocatori che abbiamo, è chiaro che non possiamo far finta di non vedere che il campionato in cui giocano non è quello italiano. Da un altro punto di vista, invece, tornando alle due pagine, bellissime le due pagine, facciamo in modo che diventino tre, anche se una e mezzo è di NBA, e magari cerchiamo di erodere un po' di spazio ad altri sport, e non faccio nomi né cognomi, ma manteniamo il fatto che, cioè, non cerchiamo di levarci le righe della Gazzetta tra NBA e basket italiano ed Eurolega piuttosto che quello che può essere. Mi piacerebbe che il basket crescesse anche se l'NBA ha lo stesso spazio di quello italiano. Senti Nicola, invece, a proposito di Eurolega, poi torniamo ovviamente sul discorso Bargnani, Bellinelli, Gallinari, anche perché insomma l'altra notte è stata una notte storica e questa notte tornano in campo tutti e tre, tra parentesi, quindi chi vuole farà tardi davanti al computer o alla televisione. Tre squadre tra le migliori 16, ora tocchiamo tutto il ferro che c'è a disposizione o quello che volete. Sì, soprattutto i tifosi dell'Armani Jeans. Sì, che hanno la sfida più difficile perché Roma onestamente a motore spento. Il concetto è che appunto a motore spento, nel senso che lo Spirou di Charleroi dovrebbe battere Olympiacos e Real Madrid tutte per negare a Roma una chance, un posto nelle 16. Quindi io ho visto tante cose strane in quel girone e più in generale in questa Eurolega, però a questa non crederei neanche la vedessi. Tre tra le migliori 16 aspettando Milano, la sensazione è che forse all'estero il livello si sia un po' abbassato, no? Parlavamo del record migliore che ce l'ha Siena insieme a Maccabi, però Olympiacos e Panathinaikos restano degli squadroni, però la concorrenza mi sembra di livello un po' inferiore rispetto alle passate stagioni, mediamente. Abbiamo parlato di Eurocup e non bisogna dimenticare che è un'altra competizione molto seria, che ci sono delle squadre in Eurocup che farebbero bellissima figura anche in Eurolega. Possiamo dire che alcune squadre hanno dovuto ridurre il budget, se parlate con Ettore Messina vi ricorderà i soldi che prende e distribuisce Mourinho e che improvvisamente sono spariti dalle sue tasche. È chiaro che ci sono squadre che hanno avuto dei problemi, nazioni che hanno avuto dei problemi, che si sono in minima parte anche ripercossi sulla situazione finanziaria dei club di basket, però alla fine della fiera secondo me è soprattutto l'Italia che è cresciuta, perché al di là del caso della Lottomatica che secondo me ha fatto il proprio dovere, ovvero ha vinto andata e ritorno contro due squadre che le sono inferiori, Milano sta soffrendo tantissimo, ma in un girone molto, molto difficile. Siena, è vero che ha il miglior record col Maccabi, ma il record di Siena andrà valutato tra due settimane, ovvero dopo aver giocato con la Fenerbahce a Barcellona. Però Siena ha stupito come sta stupendo nel campionato italiano. Milano era stata costruita per essere migliore rispetto alla passata stagione. Insomma, tutte e tre hanno fatto il loro dovere. Secondo me l'avevano fatto un po' meno l'anno scorso. Questo è sicuro. In particolare Milano con quell'approccio sbagliato all'Eurolega della passata stagione. Carlo Potenza, buongiorno. Buongiorno a voi. Due domande. Prego. La prima, qualcuno mi può spiegare cosa sta succedendo a Roma? Perché sinceramente io quest'anno c'era da puntare qualcosina come per un'alternativa, non proprio al 100%, ma che potesse impensierire un po' Siena, puntavo molto più su Roma che su Milano, anche se poi Milano sta dimostrando che invece avevo torto. E poi il telefono fa le bizze. Poi il telefono fa le bizze, ma la prima domanda non era facilissima. La prima domanda potrebbe già occupare l'intera trasmissione, sì. Ma siamo troppo avanti. Anche quella dopo. No, Roma è un film già visto, come abbiamo detto molte volte. Cioè, sembra di rivedere ogni volta la stessa stagione, invece sono stagioni diverse. Facile dire, tanti infortunati, perché è la realtà, però credo che ci sia qualcosa di più profondo. Sì, io devo dire, voglio ricordare, e non vuole essere ovviamente negativo nei confronti della gestione societaria di Roma, che fra qualche giorno Bonicioli compirà un anno. E prima di lui c'era stato Gentile e prima di lui c'era stato Repeja. Ora, io sono convinto che gli allenatori possano essere ritenuti responsabili di qualcosa che non va all'interno della squadra, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista dello spogliatoio e della gestione dello stesso. Però sarebbe importante cercare di risolvere i problemi di Roma senza partire dall'allenatore. Quest'anno, a mio modo di vedere, è stato costruito un roster che è criticabilissimo per molti versi, però la scommessa a Jedovic l'avrebbero fatta quasi tutti. Dasic era comunque quasi un innesto dell'ultima ora, quindi ci stava benissimo e ha giocato due o tre partite, almeno di quelle che ho visto io, senza considerare l'esordio con Brindisi, che era stato straordinario, ma ha giocato due o tre partite mostrando di avere un talento immenso. E allora basta solo cercare di trovargli continuità. Il problema di Roma, se vogliamo partire dalla base, e lo diciamo un po' troppo spesso, rimane che manca un playmaker, e l'infortunio di Giachetti, che già non è un playmaker di suo, certo non ha aiutato la situazione. Sì. C'è anche Charlie Smith che per però diamogliela la palla uscendo dagli scarichi come Dio comanda, e poi magari anche poi magari Smith ne mette qualcuno in più, mentre Vitali è perso per strada. Vitali è un ragazzo incredibile con un talento straordinario che non ha mai veramente sfruttato come avrebbe potuto, lo ricordiamo strepitoso a tratti a Montegranaro. Quando è arrivato a Milano io ero convinto che sarebbe diventato, aggiungo, un grande playmaker, perché aveva le potenzialità e un fisico straordinario, soprattutto parlo di altezza ovviamente. Sì. È un ragazzo che ha sempre fatto fatica, ha fatto fatica a Milano, ha fatto fatica a Roma, qualcuno ha detto che potrebbe tornare a Montegranaro e chissà che anche lui, come Hackett, non possa giovarsi del ritorno a casa. Ma sai, comunque sarebbe una sconfitta per lui, certamente, e per la pallacanestro italiana, che aveva visto in questo forse qualcosa di grande. Forse l'errore che ho fatto io, che hanno fatto personaggi molto più esperti di basket di me, è stato veramente credere che Vitali potesse diventare un playmaker, nonostante che il fisico per certi versi fosse orientato a suggerire il contrario. Cioè, è lui stesso che si sente playmaker, quindi è anche difficile convincerlo di qualcos'altro. Francesco da Torino, poi ci fermiamo. Buondì, sono Francesco, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vorrei sapere una vostra opinione sulla stagione di Varese, le prospettive e del riscatto di Recalcati, che era stato un po' buttato via dalla nazionale senza così... Sì. Dato il ben servito. Certamente è passato tanto tempo, però io sarei dell'idea di voltare pagina su Charlie Recalcati. Adesso è l'allenatore di Varese, è stato per molti anni allenatore della nazionale, un allenatore stravincente, più interessante parlare di quello che sta facendo o rifacendo magari sulla panchina di Varese. Allora, avrai sentito magari o visto quello che è successo l'altra sera al Madison Square Garden. Questo. Andrea wants it back. Oh, Andrea Bargnani ties it up. 41 for Andrea. 110-110. Shot clock down to 3. Felton. It bounces through. 2.7 remaining. Felton has 28. Eh sì, 41 del mago, ma vince il Gallo che ne segna 20. E poi Bargnani dice anche: certo che Felton invece ha avuto un bel culo. Ecco, signora, sì. Quel canestro. Ci vogliono quelle quattro parole per descrivere quei 3-4 rimbalzi del pallone sul ferro. Sentiamolo il mago. L'amore in bocca ce l'ho perché abbiamo perso, però rimane con la soddisfazione di aver fatto la carriera al Madison, che è insomma il palazzo storico, forse quello più storico dell'NBA, quindi insomma questa è una figata. È una grande opportunità ed è molto divertente, è il sogno di tutti i giocatori, ma insomma, squadre di NBA sono 30, quindi essere insomma il primo terminale offensivo di una squadra è divertente. La partita è iniziata così, siamo andati sotto di 13 punti, sono stati poi bravi a recuperare e a tenere vantaggio negli ultimi due quarti, e siamo stati audaci e cinici nel finale a vincere la partita. La nostra chiave sia la costanza che prima non avevamo. Quando perdevamo le partite avevamo pochi sprazzi durante la partita in cui giocavamo molto bene, invece adesso gli sprazzi sono diventati magari momenti più lunghi, quindi riusciamo a vincere. Bargnani e Gallinari dopo la partita del Madison Square Garden, stanotte tutti di nuovo in campo, 1, 2, 3. Flavio Tranquillo, ciao. Buongiorno. Ciao, senti, io riparto dall'inizio della trasmissione, cioè dall'ottimismo. Abbiamo 3 squadre quasi nelle top 16 di Eurolega. In Eurocup abbiamo una squadra, Benetton, che ne ha vinte 4 e perse 0. Abbiamo 3 giocatori che fanno 83 punti in una notte NBA. È quasi Natale, perché non essere ottimisti? Sì, ci sono i motivi per essere ottimisti. Se devo essere sincero, ma non vorrei rovinarti il Natale... Ci sono anche per quelli per essere meno ottimisti, ma non sono relativi a un punto di vista tecnico, sono relativi a un polso un po' flebile in generale del prodotto basket, se devo dire la verità. Però in campo assolutamente i motivi per essere ottimisti ci sono. A cosa ti riferisci, Flavio? Ma al fatto che sento poco il polso, sento poco l'attenzione, sento come un qualcosa che non reagisce tanto alle sollecitazioni in senso generale, questo un encefalogramma un po' piatto cestisticamente parlando, ma anzi voglio dire non cestisticamente per il gioco, cestisticamente per l'impatto a livello mediatico, ma non solo mediatico, di attenzione, di curiosità, di stimolo, di propulsione, non so se riesco a spiegarmi, ma è una sensazione e basta, sono io, non è una cosa scientifica. Sì, è quello che senti tu. Bargnani nell'intervista che compare oggi sulla Gazzetta dello Sport chiude questa intervista con un paradosso che però è anche una grande verità. Gli parlano di nazionale e lui risponde: l'estate è ancora un po' lontana, mi sembra che noi dell'NBA però siamo gli unici a giocare. Chi c'è in Italia che gioca 30 minuti a partita? E questo è sicuramente un fattore. Questo è un fattore paradossale, poi, però abbastanza paradossale. Penso che in realtà, se andiamo a vedere, è molto difficile capire se loro giocano 30 minuti adesso nell'NBA perché hanno giocato 35 minuti a un certo tipo di età in Italia, ma bisogna vedere se quei 35 minuti erano giocati perché erano così forti che dopo sarebbero andati a giocare nell'NBA o perché c'è stato un piano particolarmente efficace nella visione a medio-lungo che gli ha permesso di fare questo. Sicuramente nel caso di Gallinari questo è avvenuto. Il primo anno a Milano lui ha giocato un minutaggio che non sempre era direttamente correlato alla bontà delle sue prestazioni. Fece un ottimo inizio, poi come è naturale ebbe una pausa e durante quella pausa il suo minutaggio non calò in maniera significativa se non in un paio di occasioni, perché l'idea era quella molto giorgevicciana, non a caso perché Giorgevic lo ha sperimentato sulla propria pelle, di dire: noi crediamo che tu sia un grande giocatore, quindi giochi per fare esperienza anche quando non stai giocando benissimo e quando anche magari ci costa uno o due sconfitte. Però l'importante è non credere che basti far giocare qualsiasi buono, decente giocatore di 18, 19, 20 anni, 30 minuti per ottenere altrettanti Gallinari e Bargnani. Io ragazzi chiudo girandovi a Nicolò Trigger e a Flavio Tranquillo questa domanda che arriva via SMS da Andrea. Parto da Nicolò. Cosa ne pensi dei nuovi Blazers, Portland Trail Blazers? Nuovi, vecchi, nel senso che sono sempre infortunati come prima, che Brandon Roy ha ancora più problemi di prima, che ora hanno trovato insomma un paio di vittorie, però purtroppo anche quest'anno non credo che sia per loro e a sto punto mi viene il dubbio che ne arrivino all'orizzonte. Flavio? Ma sento dire che potrebbero addirittura pensare, non dico di fare del rebuilding, della ricostruzione assoluta, però mi sembrano loro i primi a essere convinti che con questo tipo di impianto fino in fondo non sono in grado di arrivare. Ci vorrebbe, ma è solo una battuta ed è troppo facile, che so, uno come Durant. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. A voi. Grazie ciao. Flavio Tranquillo. Da tante parti ci vorrebbe uno come Durant. Sì, ovviamente. Senti, la battuta era simpatica perché i Blazers, e non è la prima volta nella storia del draft, avrebbero anche potuto averlo. Avrebbero potuto averlo. Invece di New York, che tutto sommato a me non continua a non sembrare tutta sta squadra, però è in striscia. Vince con squadre con le quali può vincere. Se andiamo a vedere la lista delle squadre che i Knicks hanno battuto in questa striscia vincente, non troviamo proprio l'elite della Lega. Se non sbaglio, gli Hornets sono l'unica squadra che hanno battuto in questa striscia che abbia record attualmente vincente, e l'hanno battuta non esattamente quando gli Hornets erano 11-1, ma quando era già iniziato il calo. Questo non toglie niente che in NBA vincere X partite su Y, come stanno facendo i Knicks, sia qualcosa di straordinario, perché alla fine se tu batti tutte le scarse arrivi ai playoff, certo, ma in carrozza. E certo, l'obiettivo è quello, non può che essere quello l'obiettivo massimo. Porsi degli obiettivi ulteriori è difficile. È impossibile, Nick. Grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora restituiamo Nicolò Trigari a Coach Peterson e a Sport Italia. Noi torniamo naturalmente venerdì prossimo con Palla Spicchi. Domani con lo sport invece, come sempre, dalle 5 alle 6 nel weekend. Ve lo ricordo, casomai non vi ricordo, vi fosse sfuggito ancora, domenica dalle 16.30 alle 19, quindi mezz'ora prima rispetto al passato. Grazie a Peter Bescapè in regia, a Franco Piantanida in redazione, ci sentiamo domani.